vita che pulsa sotto la pelle. La terra racconta storie di antiche civiltà, mentre le montagne si ergono, custodi del tempo. Quando la vita germoglia, un ciclo si compie.